Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, ultimo appuntamento con la versione estiva di Essere e Avere, il meglio di, come ci piace chiamarlo, in attesa di ritrovarci a settembre con le nuove storie su consumi e nuove tendenze, dai fenomeni emergenti della moda, del design, del retail, passando per pubblicità, marketing e social media. Questa sera vi riproponiamo la puntata dedicata a città e consumi, dalle vie dello shopping di lusso sempre più costose e uguali le une alle altre, che si tratti di Milano oppure di Shanghai, al tema quanto mai attuale della diversità e della multiculturalità, quello del crowdfunding civico, sociale, che a partire dal basso può cambiare faccia alle nostre città, e della cittadinanza attiva sempre più impegnata nei temi della sostenibilità. Monte Napoleone, il salotto di Milano. Con 10.000 euro al metro quadro, via Monte Napoleone è la terza via dello shopping più costosa d'Europa, dopo gli Champs-Élysées di Parigi e New Bond Street di Londra. Lo rivela la ricerca annuale sui canoni di locazione firmata Cushman & Wakefield, società leader nei servizi per immobili commerciali, che traccia oltre 500 tra le principali vie commerciali nel mondo e fotografa quest'anno affitti in aumento nel 35% delle vie, nonostante il perdurare del clima di incertezza a livello globale. A livello mondiale, la via più costosa al mondo è la Quinta Strada di New York, 33.000 euro al metro quadro, pensate, seguita da Causeway Bay ad Hong Kong, 23.000, e poi le prime due europee. Sono cifre che solo grandi realtà possono ormai permettersi, e questo spiega perché queste vie stiano diventando sempre più uguali a se stesse, indipendentemente dalle città in cui si trovino. Grandi brand della moda, del lusso, dell'elettronica, con negozi dai format spesso identici. Questo cambia l'identità delle città. In che modo il retail, l'offerta di prodotti e servizi nelle città, può cambiare anche il loro tessuto sociale? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Nuvolati, ordinario di sociologia urbana all'Università di Milano Bicocca. Diciamo che è in atto un processo di omologazione dei centri storici, soprattutto delle vie commerciali. Questo vale sia dal punto di vista dell'offerta e dal punto di vista della domanda, nel senso che anche le popolazioni che frequentano questi luoghi sono sempre più popolazioni non residenti e globalizzate, penso ai turisti, ai city user, che fanno tra l'altro un uso fortemente strumentale della città, cioè mirate al consumo piuttosto che all'uso del tempo libero. Questo determina una perdita progressiva delle identità locali di alcuni quartieri delle città. Poi ovviamente c'è il tentativo di mantenere l'identità, perché altrimenti le città, se non sono un po' diverse, perdono in attrattività. Penso ad esempio al ristorante con la cucina tipica, la bottega storica, l'artigianato locale, però anche quanto rimane di non globalizzato è rivolto a fasce alte di consumatori e molto meno è in termini di rappresentazione di quella che è la vita quotidiana dei ceti medi, dei ceti o più deboli o popolari. Quindi diciamo che questo è un processo ovviamente di gentrificazione molto forte, che tende a essere sempre più accentuato. Proprio alla gentrificazione si fa riferimento quando si parla di una delle realtà simbolo della sharing economy, Airbnb, che ha fatto sì che l'offerta di affitti si concentrasse in determinate zone della città a danno dei residenti, perché poi ne usufruiscono soprattutto i turisti. Su questo argomento lei cosa si sente di dire? Beh, mi sento di dire che l'esito di questo processo della gentrificazione, che poi è un po' significa anche la concentrazione in alcuni quartieri della città o della popolazione più abbiente o di quella spesso più creativa, comunque fanno sempre parte di una elite. Ora, questo cosa determina? Determina quello che viene definito come una polarizzazione forte della città. Il centro e alcuni quartieri riqualificati hanno un'alta qualità della vita, mentre invece si tende sempre di più ad una sorta di periferizzazione del disagio. Sono città appunto spaccate in due, polarizzate. Un tempo c'era una classe media che faceva cuscinetto, ora questa classe media tendenzialmente non vive più in città, si sposta fuori dalla città, vive nell'Interland, vive nella città diffusa, quindi le nostre città invece sono sempre più polarizzate, con presenze di popolazione, ripeto, abbienti, con grandi disponibilità economiche, e dall'altro con le periferie delle città invece che sono sempre più povere. L'antidoto a tutto questo, se c'è, qual è? Chi si occupa di pianificazione urbana ci sta pensando? Sì, beh, diciamo, intanto alcune iniziative devono essere quelle di investire, riqualificare, migliorare la qualità della vita, non solo nel centro storico, non solo nelle vie commerciali. Bisogna pensare alle periferie, questo lo sta facendo anche Renzo Piano, ad esempio, no? Cioè lavorare sulle aree marginali della città, non pensare solamente alla città vetrina. L'altra cosa che si sta mettendo in atto è che ci sono delle modalità di ricostruzione delle identità di quartiere o quantomeno delle nuove forme di comunità sganciate da pratiche consumistiche che passano attraverso internet. Penso ad esempio alle social street, penso alle comunità ibride, cioè persone che abitano in alcune quartiere, in alcune zone, che hanno la capacità di ricostruire relazioni e reti, prima attraverso internet, entrando in contatto sui social network, ma poi anche fisicamente, materialmente, tornando a vivere il quartiere, a renderlo luogo di attività significative, non necessariamente legate al consumo, ma legate alle relazioni sociali. Quello che sentite in sottofondo è uno dei temi della colonna sonora di Babylon Sisters, film sulla multiculturalità girato a Trieste, città multietnica e cosmopolita per tradizione. Racconta la bellezza della diversità tutta al femminile. Teatro della storia, una palazzina in periferia in cui convivono immigrati indiani, cinesi, croati, turchi e un unico italiano. Ecco che cosa ci ha detto il regista Gigi Roccati. La storia di Babylon Sisters è quella di quattro donne immigrate che vivono in una palazzina degradata e sottosfratta nella periferia di Trieste, nel quartiere di Ponziana, una periferia portuale, che in qualche modo si uniscono nella lotta per salvare il destino delle proprie famiglie, mentre gli uomini reagiscono in modo scomposto o violento. Ecco, le donne invece si alleano e nasce un'amicizia, una sorellanza, come si può dire, che diventa poi un progetto di una scuola di balli in un quartiere popolare, coinvolgendo poi un intero quartiere, come abbiamo fatto in realtà nel film. Questo piatto è i tuoi paesi? No, è iota, minestra di fagioli e crauti, agiti, piatti tipico triestino. Questa dice famosa cantante, questa fa grande diva di Turchia. Questa è l'era, andava tutto bene, ci siamo noi. Si sistema tutto. E queste donne sono un'indiana, Shanti, una cinese, una turca che canta anche, che è Yasmin Sannino, e una croata, che tra l'altro è una grande attrice. Abbiamo mischiato, ecco, quindi persone della realtà e attori. E in questa casa abita anche un vecchio professore indignato, arrabbiato con tutto il mondo, per primi con i suoi colorati coinquilini, che è il professor Leone, che però in realtà svelerà un'anima poetica, proprio perché nascerà un'amicizia tra lui e la piccola Kamla, la figlia della nostra protagonista Shanti, che in qualche modo diventerà una sua allieva in queste lezioni di poesia che lui poi inizierà a impartirle con sessioni di panini al salame e Ungaretti. Abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. E però è un film dove si balla, quindi poi la storia delle Babylon Sisters è quella di un gruppo di donne che fondano una scuola di ballo e diventa un musical in qualche modo. Finzione e realtà, lo dicevi poco fa, perché gli interpreti portano sul set molto del loro vissuto. Sì, assolutamente, è stato meraviglioso, è stato un territorio di scoperta e anche di riscrittura del film, quello del casting, E così poi abbiamo coinvolto anche l'intero quartiere di Ponziana grazie all'aiuto di una NGO, di una, come dire, di una microarea del quartiere che lavora con le vecchiette, con le donne che ballano latinoamericana, con i disoccupati. Quindi abbiamo tirato poi dentro il film questo mondo reale che ci ha anche accolto. Mai come in questi giorni il tema della multiculturalità delle città è associato a quello della guerra. Ecco, è una riflessione che hai fatto sotto questo aspetto. Che cosa ti senti di dire in relazione a questa tua esperienza, sia sui fronti di guerra che nel racconto di una storia di convivenza? Beh, io mi sono trovato ad essere accolto, ad essere straniero, ma anche ad essere accolto in tanti luoghi del mondo, e ho scoperto la dignità degli ultimi, l'ospitalità anche delle persone umili. Questo mi è successo non solo a Beirut, dove ho vissuto 5 anni, ma mi è capitato anche in Africa o in Sud America, ho viaggiato in Afghanistan. La storia nostra è un passo al di là dell'immigrazione, nel senso che raccontiamo della storia di persone chiaramente che lottano sì per integrarsi, per trovare un lavoro decente, per comunque portare avanti un po' le proprie famiglie, ma sono anche gli stessi problemi comuni che hanno gli italiani. Queste storie che raccontiamo sono storie di donne, prima di tutto. Però è proprio nella multiculturalità che c'è una risposta anche alla violenza e al terrorismo. Restate con noi perché nella seconda parte vi raccontiamo la storia, l'intuizione di una startup, una community ispirata al mondo delle api, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, continuiamo a parlare della città e delle sue trasformazioni, un tema che ha molto a che fare, molto più di quanto si pensi, con consumi e innovazione. Ripartiamo da alcuni dati. Oggi il 54% della popolazione mondiale vive in aree urbane. Nel 2050 questa percentuale, lo dice l'ONU, si avvicinerà al 70%. Sul pianeta gli abitanti dei centri urbani crescono al ritmo di 60 milioni l'anno. Siamo la prima generazione ad alta identità urbana, dice l'antropologo Marc Auger, che parla di Ville Planet, di una città mondo. In questo scenario trovano una ragion d'essere tutti i progetti che si pongono come obiettivo il miglioramento della qualità della vita nelle città, anche, anzi direi soprattutto, dal basso, come Plan B, piattaforma di crowdfunding civico per finanziare progetti destinati a far rifiorire gli spazi pubblici, dal parco sotto casa alla pista ciclabile, dalla raccolta differenziata alla bonifica dei siti inquinati. In Plan B ha aperto una vera e propria a caccia al tesoro, che ha chiamato Be the Change. In pratica sta cercando iniziative civiche e ambientali da promuovere e quindi finanziare con le campagne di raccolta fondi. Ci racconta tutto uno dei fondatori, Armando Mattei. Be the Change è essenzialmente una call rivolta a tutto il territorio nazionale, quindi essenzialmente a tutta Italia, per acquisire progetti da associazioni, comitati, onlus, amministrazioni, quindi da soggetti che possono presentare progetti di qualificazione civica che vanno a migliorare le città in cui viviamo. Soggetti che hanno dei progetti da presentare possono appunto collegarsi al nostro sito e inviarci tramite l'apposito form insomma i dettagli del progetto. Facciamo un po' di esempi dei progetti finanziabili. Il parchetto sotto casa, che può appunto essere diciamo riqualificato, oppure ad esempio delle aree giochi. Abbiamo visto che c'è molto interesse per le aree giochi inclusive, quindi dei piccoli parchi gioco che abbiano delle strutture utilizzabili anche da bambini disabili. Oppure altre categorie di progetti molto interessanti sono ad esempio gli orti urbani, che possono essere appunto collocati o nelle città o anche questi nelle scuole. Appunto, anche qui c'è un discorso molto, molto importante, sia di educazione all'ambiente ma anche di diciamo inclusività per i bambini. Poi essenzialmente diciamo i progetti sono tutti quelli che sono attinenti alla sostenibilità, al miglioramento delle città, quindi non so, la bonifica o la riqualificazione di un'area degradata, anche diciamo anche questo è sicuramente un tipo di opera, una tipologia molto interessante. E il primo progetto pilota lanciato è stato per la riqualificazione del Giardino dei Semplici di Firenze. Il Giardino dei Semplici è uno degli orti botanici più antichi del mondo, era stato parzialmente distrutto da una tromba d'aria. Quello che ci ha colpito molto è diciamo il grande senso di partecipazione, di insomma, di impegno di tutta la cittadinanza di Firenze. Abbiamo ricevuto donazioni da persone di importo molto, molto vario. Diciamo, la campagna crowdfunding è stata anche un modo per far scoprire ai cittadini di Firenze il Giardino dei Semplici, quindi portare la conoscenza di un bene storico e naturalistico di grandissima importanza che insomma, per molti cittadini di Firenze era, diciamo, quasi sconosciuto. A chi vi rivolgete voi? Noi essenzialmente ci rivolgiamo ovviamente ai promotori dei progetti, quindi amministrazioni, comitati, cittadini. Per quanto riguarda invece il finanziamento dei progetti, ci rivolgiamo sia ai privati cittadini, appunto, che possono contribuire alle campagne di crowdfunding, ma anche alle aziende, perché appunto crediamo che il crowdfunding possa essere un ottimo strumento per le aziende per realizzare azioni di responsabilità sociale direttamente sul territorio. Crediamo appunto che con il coinvolgimento di tutta la società civile, quindi sia delle persone che delle aziende, si possano raggiungere degli obiettivi di grande impatto sul territorio. Focus sui trend. Anche il focus sui trend della settimana è dedicato a città e consumi. La sostenibilità, la vivibilità delle nostre città è diventato l'obiettivo comune non solo di cittadini e amministrazioni, ma anche di brand e aziende. Ne parliamo come sempre in questo spazio con i ricercatori di Future Concept Lab. Paolo Ferrarini, bentrovato. Bentrovati a voi. Allora, da dove partiamo? Quali casi ci vuoi raccontare? Allora, io partirei da un caso di Milano molto molto interessante che si collega ad uno dei paradigmi che noi di Future Concept Lab osserviamo già da molti anni, che è il crucial and sustainable. Oggi si parla tanto, come dicevi giustamente tu, di sostenibilità in tantissime forme, una sostenibilità che non è più semplicemente la sostenibilità legata alle ideologie magari nate negli anni 70 del rispetto della natura perché è giusto, perché è bello. Ma soprattutto la sostenibilità oggi si gioca sugli elementi cruciali, quelli che ci toccano direttamente nella nostra vita quotidiana e possono essere anche le piccole cose che riguardano ad esempio il nostro attraversamento urbano. Un esempio al quale anche noi di Future Concept Lab abbiamo collaborato è una campagna, diciamo, sponsorizzata dal Comune di Milano, AMSA A2A, e promossa da JTI, che è una multinazionale del tabacco, che ha lanciato questa campagna che si intitola Milano è così, non buttarla a terra, ed è proprio orientata a stimolare i cittadini, invitare i cittadini di Milano a non buttare i mozziconi delle sigarette per terra. Quindi una piccola cosa, un piccolo gesto che però può fare una grandissima differenza. Questa campagna proprio fa vedere la Milano più bella, quindi con dei begli scorci di Milano e delle frasi che ci invitano, insomma, a rispettarla. Quindi anche qui crucial e correct, un piccolo gesto corretto, giusto, che si può fare nella quotidianità e che ci porta a vivere meglio insieme. Ecco, il segreto di progetti come questo, Paolo, sta nell'efficacia delle campagne di comunicazione da un lato, ma anche nella spinta appunto al coinvolgimento, all'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, la famosa spinta gentile, il nudge di cui tanto si è parlato. Esatto, è il fare le cose e farlo sapere, cioè nel senso, è la logica dell'hashtag. No, io sto facendo una cosa meravigliosa, sto facendo una cosa strana, sto facendo una cosa utile, bene, te lo faccio sapere, devo condividerlo, divento una sorta di ambasciatore di un buon comportamento. Un caso anche molto buffo, ma che è diventato poi anche un prototipo, diciamo, di questi fenomeni, arriva da Panama, quindi insomma dall'altra parte del mondo. Panama è una città che, come molte città che sono cresciute molto negli ultimi anni, vivono questo contrasto tra estrema modernità e una tradizione che, insomma, quasi rurale, no? Per cui a Panama possiamo trovare dei grattacieli spettacolari e troviamo anche delle strade però che sono assolutamente disastrate. Ecco che un'associazione ha fatto el hueco tuitero, cioè il buco della strada che è in grado di twittare. In sostanza hanno realizzato questi enormi bottoni che vengono collocati proprio nelle buche della strada. Tutte le volte che una macchina entra in una buca, schiaccia questo bottone, parte un tweet rivolto al Ministero delle Opere Pubbliche. Nel giro l'effetto è stato talmente dirompente che, diciamo, l'iniziativa è stata lanciata nella primavera di quest'anno, il 2015. Nel giro di 3 giorni il Ministro delle Opere Pubbliche è andato in televisione a giustificare il raccontare, spiegare insomma un po' quello che stavano facendo. Moltissime buche sono state riparate e questo è diventato un caso che ha fatto scuola, ha vinto il Leone al Festival della Pubblicità di Cannes. Un bellissimo caso, sicuramente da copiare, un tweet bombing virtuosissimo, direi. Mai come adesso la comunicazione commerciale e quella sociale si incontrano. È vero, sì, assolutamente. Un altro caso molto interessante che abbiamo osservato, invece, che arriva dall'altro capo del mondo, che è dalla Cambogia, è quello del Lucky Iron Fish. In molte zone della Cambogia l'anemia è molto molto diffusa, si mangiano molte verdure, si mangia poca carne, poco pesce, insomma. Il pesce in Cambogia è simbolo di buona fortuna, per cui questa associazione benefica ha realizzato dei piccoli pesci di ferro, ci sono proprio dei pesciolini di pochi centimetri di ferro, che possono essere aggiunti nei cibi durante la loro cottura. Con l'aggiunta di un po' di limone, il ferro viene distribuito all'interno del cibo. Quindi si tratta anche qui di un piccolissimo oggetto, di un piccolissimo caso, di un fenomeno che, come dire, sembra assolutamente superficiale, ma dati dimostrano che sta già portando dei grandissimi vantaggi. Anche qui un piccolo gesto quotidiano, un piccolo gesto pensato per, diciamo, per aiutare persone che ne possono aver bisogno. Grazie a Paolo Ferrarini, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale. Il mondo dei consumi è cambiato, lo andiamo dicendo da tempo, molti dei riferimenti tradizionali sono scomparsi, noi però abbiamo scelto la nostra guida che ci aiuta a districarci nella giungla di informazioni. Francesco Morace, ben trovato. Grazie, buonasera a te Maria Luisa e ai radioascoltatori. Quale tema hai scelto per questa sera? Per questa sera ho scelto un mondo di vita e di soggetti di cui spesso si parla solo con un'unica visione, cioè sono i longevi, non solo gli anziani, i longevi, diciamo gli ultra 65 anni, che desiderano ancora ardentemente lavorare. Li abbiamo definiti job players perché per loro il lavoro, il job è importante, ma è anche un gioco, cioè un modo per sentirsi vivi. Quando si parla di questa fascia di età e comunque della situazione in cui si trovano a vivere oggi i silver, diciamo così, si parla anche molto di un tema importante, quale quello della staffetta generazionale e del dialogo comunque con le nuove generazioni. Sì, qui è importante anche ragionare sui numeri. Una ricerca Censis importante ci dice che 1 milione di longevi lavora in modo direi normale, ma ce ne sono 2,5 milioni che lavorano saltuariamente e tante volte trasferiscono, pensiamo agli artigiani, pensiamo a chi lavora anche nel commercio, trasferiscono le loro competenze e la loro esperienza alle giovani generazioni. Quindi su questo bisogna veramente fare una riflessione ad hoc specifica per aiutare questo che è un mondo, parliamo di 5 milioni più o meno di longevi, che dei 13 che oggi ci sono in Italia continuano ad avere un'attività. Un patrimonio di saperi, di esperienza che tante volte trova, li raccontiamo spesso, anche dei casi simbolo, Francesco. Sì, un caso che io trovo meraviglioso è quello di Settimo Cielo, che è un gruppo di anziani a Settimo Torinese, da cui anche il nome di questa attività, che un po' di anni fa avevano tutti insieme seguito un corso per imparare il digitale, no? E quindi come usare il web, come usare il blog, e su questo in realtà hanno creato una vera e propria attività di racconto del loro quartiere, che si chiama appunto Settimo Cielo, e che propone finalmente anche il punto di vista di un anziano, no? E quindi le cose che a loro piacciono, commentano, ed è veramente il caso tipico di un'Italia di cui spesso non si parla e che è molto viva, vivace. Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Questa era l'ultima puntata dell'antologia estiva di Essere e Avere. In agosto lasciamo spazio a una diversa programmazione. L'appuntamento è a settembre con le nuove storie e le nuove riflessioni sui consumi e le nuove tendenze alla ricerca dei segnali che tracciano il cambiamento, come mi piace dire, i segnali di un futuro che in molti casi appunto è molto più vicino di quanto si pensi. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.